Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. La Commissione Mercato Interno dell'Europarlamento ha dato il suo via libera al pacchetto legislativo Tajani-Borg per la sicurezza dei prodotti, incluso l'articolo 7 che di fatto prevede l'indicazione d'origine, il Made in Europe dunque. I ministri europei dell'ambiente lunedì hanno deciso di congelare i termini del tetto all'emissione di CO2 delle automobili. Era stato fissato a 85 grammi chilometro per il 2020. Il congelamento di questa decisione è stato considerato un successo per la Germania e per la sua industria automobilistica, che era contraria. Allora l'europarlamentare tedesca, invece, Rebecca Harms, co-presidente del gruppo Verde al Parlamento europeo, si dice preoccupata del fatto che un costruttore possa decidere la politica ambientale dell'UE. Io spero che questo rinvio non significhi rinegoziare tutto, perché vorrebbe dire che una compagnia automobilistica tedesca potrebbe fermare, bloccare l'intera legislazione dell'Unione Europea. Dato che il compromesso è stato già firmato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell'estate. L'obiettivo dei 95 grammi di CO2 per chilometro fissato al 2020 è stato accordato dall'Unione Europea anni fa. Scoprire ora che solo BMW, una delle case automobilistiche tedesche che non può centrare questo target, ha pagato 600.000 euro al partito della Merkel ed è ora in grado di fermare l'intero processo, è un vero scandalo. Questa è l'intervista alla co-presidente del gruppo Verde all'Europarlamento, Rebecca Harms, realizzata da Letizia Markakis. Turchia e Balcani ora in primo piano nel tradizionale rapporto della Commissione europea sull'allargamento dell'Unione. Sì, all'Albania, quale paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea, via libera pure alla riapertura dei negoziati con la Turchia. Queste in sintesi le principali conclusioni del rapporto annuale della Commissione Europea sull'allargamento. Il capitolo più atteso riguardava la Turchia, dopo la violenta repressione delle proteste in piazza Taksim. Bruxelles ha rimproverato Ankara per l'uso eccessivo della forza e per l'intransigenza mostrata verso i manifestanti, ma invita in ogni caso i Paesi membri a ridare slancio ai negoziati con la Turchia, puntando subito proprio sui capitoli più delicati, quelli relativi a giustizia e diritti fondamentali. L'Albania si avvia a ricevere ufficialmente al prossimo Consiglio europeo di dicembre la luce verde per lo status di paese candidato, che equivale al pass verso l'anticamera dell'Unione europea. Determinanti si sono rivelati i buoni progressi nelle riforme e la conduzione delle ultime elezioni politiche. Restando nei Balcani, la Serbia, candidata all'ingresso nell'Unione, resta osservata speciale nelle sue relazioni col Kosovo. Tra 11 giorni Pristina inizierà i negoziati per l'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Europa. Resta bloccato il percorso della Macedonia a causa dei dissidi con la Grecia, bocciata invece la Bosnia, mentre avanza lentamente il Montenegro nel cammino verso l'Unione Europea. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, proprio pochi momenti fa, una notizia ci racconta che il Senato ha approvato con 178 voti a favore, 48 no e 4 astenuti, l'accordo con Albania e Grecia per il gasdotto Trans-Adriatic Pipeline, il Senato italiano ovviamente, gasdotto che trasporta gas dai giacimenti del Caspio e considerato strategico per diversificare le fonti energetiche. Intanto si aggrava il contenzioso tra Roma e Bruxelles in materia di risarcimento delle vittime di crimini violenti. Nel pacchetto mensile sull'infrazione che viene presentato questa mattina, ogni giovedì di fatto, l'Italia viene messa in discussione per insufficiente implementazione della direttiva in materia, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a garantire risarcimenti equi e adeguati alle vittime di crimini violenti commessi sul proprio territorio. Nel caso dell'Italia, l'ordinamento prevede compensazioni per le vittime di reati connessi al terrorismo o alla criminalità organizzata, ma non per altre tipologie di crimini violenti. E infine la corsa alla futura presidenza della Commissione. I socialisti hanno già lanciato la corsa alla poltrona, appunto, di presidente della Commissione europea. Ora lo fa anche il gruppo dei liberal democratici europei, l'ALDE. Per conoscere i candidati bisognerà aspettare fino a novembre, quando il partito andrà a congresso a Londra. Un paio di nomi però già circolano, in particolare quello di Guy Verhofstadt, del belga e capo delegazione del gruppo al Parlamento europeo, ma anche il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn. E con questo per Europa 24 è tutto, l'appuntamento torna domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.